sicuramente nella centralina. Adesso lo ristalliamo il software. Vabbè, me la danno, sembrava tutto a posto, poi ho cominciato a farlo, gliel'ho riportata, è la stessa cosa, me l'hanno aggiustata, poi me l'ha rifatta. Tanto questa volta gliel'ho portata e gli ho detto, voglio la centralina nuova, perché la macchina è in garanzia e non mi deve scadere la garanzia, la voglio, ma adesso vediamo, dobbiamo chiamare i tecnici, questo e quell'altro, chiamate chi volete, la centralina io la voglio nuova, perché la macchina non c'ha manco un mese, e mi danno in giambata, centralina e tutto il blocco dove c'è contachilometri, roba del genere, tutto quel blocco lì. Sì, poi bisogna vedere appunto, bisogna leggere molto bene cosa prevede il contratto di garanzia, perché è tutta una fruttitura, un campo minato, ti dicono questo lo copre, questo no, questo lo copre, sembra fatto ad arte per coprire il meno possibile, il meno possibile. Purtroppo il furto è l'anima del commercio, già, è proprio vero. Sì, per dire, se ci sia una macchina difettosa non te la cambiano, la roba elettrica non te la cambiano. Però visto che era la centralina che è il cervello della macchina, a me me l'hanno cambiato. Io ho sentito di gente che si è lamentato anche della Volkswagen. Un tizio aveva preso nuova una, non la Polo, l'altra, la Golf, se non è la Golf, no, non andava bene. Prima tutti gentili, al primo problemino, perché lui la tratta come una reliquia, al primo problemino che ha avuto, trattato come un cane dalla concessionaria, proprio un menefreghismo assoluto. Ho un'amica che lo stesso ha comprato la Clio nuova, praticamente difettosa, si l'ha lasciata, la devo ottenere un mese, gli hanno dato la macchina di sostituzione di quelle elettriche che lei non aveva mai usato, mi ha detto, mi hanno messo questa macchina in mano, non me l'ha spiegato nulla, mi sono dovuto arrangiare io perché non sapevo manco come si caricava, niente. Sì, non gliene frega niente, anche per esempio le macchine di adesso magari non ti durano 30 anni come una volta, no? Quindi sanno che tu tornerai magari entro 10-15 anni a cambiare macchina, chi può farlo, e invece di trattarti bene anche post vendita ti lasciano nella cacca, capito? E allora uno però sapendolo entro a breve, cioè non torna più a comprarla da loro, va da un altro, non gliene frega niente lo stesso, però lì già o si informa la casa madre o il concessionario che non è a gana, non ha voglia, i dipendenti non ne hanno voglia, allora lì bisogna contattare la casa madre e dire che il concessionario sta comportando in un certo modo. Marco ha ragione, cioè molte volte se ne fregano davvero. A me me l'avevano fatto con la moto, avevo comprato la moto il Link 150, moto vera, chissà come ti ha giovato, mi stavo prendendo l'onda e praticamente mi ha convinto a comprarmi quella dicendomi che aveva il motore Honda, che però invece che essere costruita per dire in Giappone era stata costruita in Corea, eccetera eccetera, però il motore era lo stesso, pensi uguale all'Honda. Me l'ha fatta provare, ho visto che tirava bene come moto, era bella pimpante, vabbè, preso questa moto, dopo un paio di mesi c'aveva la finestrella trasparente dove si vedeva l'olio, il liquido del radiatore, lo vedo nero, e la porto, e dico guarda che qua c'è il liquido nero e sicuramente si sta mescando l'olio col liquido. No, non è così, è il sole che fa cambiare il colore, ma non è niente, perché il vetrino poi si scurisce, e ho trovato un po' di scuse. Non è niente, in caso la moto non mi lascia in strada, tornando da Porto Torres. Mi ha lasciato in strada, ho chiamato il mio collega col furgone, l'abbiamo caricata sul furgone e l'ho portata a Sassari. L'ho portata a Sassari, quando l'ho portata mi ha detto, ma sicuramente non è niente, guarda, adesso la controlliamo, ma non penso che sia nulla. Poi mi ha detto che voleva rifatto il motore, l'ha lasciato passare un paio di giorni di modo che la garanzia scadesse. Questo è truffaldo, lo dico pure. aspettato che la garanzia scadesse e praticamente ho dovuto rifare il motore con 1500 euro perché mi aveva fatto un casino nel motore. Sono pirla. Già quando gliel'hai detto non sarà niente, bastava svitare un dado dell'olio a vedere cos'era, se l'olio era contaminato, per dire. Sì, non gliene frega niente, dovrebbero cambiare lavoro, non ne ha fatti nulla. Vediamo se è rientrato Antonello, stavo stare cucinando a quest'ora da Antonio? Chi su, magari chi su della onda di osso, chi sei un pirla, chi su, un manco di catena. Quando ce l'aveva però su in via Vendo, su via Napoli. In via Napoli, già non conosco chi è, hai detto, sapevo anche il cognome, sapevo. Mi fa lo sconto, lo sconto ti abbia dato a te, che andavano di cazzo lo sconto a me lo vai. Cioè, caro il sangue. Comunque l'ha fatto anche ad altra gente, perché con la stessa moto mi hanno detto che gli ha fatto lo stesso difetto e lui ha fatto la stessa cosa con gli altri. Ha lanciato questa moto che era praticamente difettosa per venderla, capito? Però io, se avessi comprato Roma, non mi avrebbe fatto, sai cosa ho fatto? Gli ho rifatto il motore, l'ho messa subito in vendita, di modo che me la togliessi da mezzo, me l'ho venduta e mi sono comprato il Suzuki. Per capo. Oh, per me i Piaggio sono sempre i migliori, sono rocche quelle moto. Ho visto l'X9 che c'aveva Daniele, il mio ex principale, era una bomba. Ce l'ha avuto un mio amico, un po' meno di cilindrata, e ha fatto 400.000 km, sempre andando, non si fermava mai questa moto. Cioè, l'X9 per me è la moto più riuscita, più robusta che c'è in circolazione, secondo me. Poi adesso non so anche le altre come vanno, ma quelle c'erano un motore che era indistruttibile, gli aveva detto anche il meccanico. Indistruttibile. Piaggio è costruito bene. Io ho avuto Suzuki sia il 150 che il 400. Il 400, il 150 l'ho tenuto poco, l'avevo preso a seconda mano, poi ho visto il 400, mi è piaciuto, ho versato quello e mi sono preso il 400 e ho pagato la differenza naturalmente. Il 400 all'inizio mi ha dato un problema, praticamente si spegneva e cosa era? Avevano fatto il serbatoio della benzina, l'avevano spruzzato con un materiale che si sgretolava. Questa sgretolazione della pernice che riusciva andava a finire e tappava il giglio, tutto gatto. Beh, fatto sta che me l'hanno cambiato in garanzia, però me l'hanno messo in ferro invece che in plastica, non verniciato, in ferro proprio puro, e non mi ha più fatto quel difetto. L'unica cosa che mi ha fatto è quello, poi l'ho tenuta 10 anni senza manco un difetto, poi l'ho venduta bene, dopo 10 anni l'ho venduta come se fosse una moto nuova. Che ti andavano bene, cavolo, però si Piaggio, cavolo, cari armati, soprattutto l'X9 era molto robusto, ed è molto robusto come moto, ma ce l'avevo detto al meccanico pure, gli si andano sempre. La mia faceva 160 km orari, mia Antonio, era una motoretta, faceva 160. E perché il 500 che c'aveva il mio principale non camminava così lo stesso? Era una bestia, era. Ma l'X9 non è 250? No, c'è il 500, ma si misureggia, si misureggia, cioè cammina un bel. Vabbè, adesso come molto finito, già ho avuto troppe, adesso mi sono stufato. Avanti Marco. Sapete che dopo tanti anni avevo rivisto in Viale Mameli quella famosa, uno dei primi scooter dell'epoca, quello brutto squadrato, a me piaceva, era una cosa spaziale, mi pare si chiamasse CN250, quello ricordavate, il primo scooter, o era Honda, adesso non mi ricordo se Honda o Suzuki, credo Honda, però Honda CN250. Honda. L'ho visto parcheggiato in Viale Mameli, quanto tempo è passato. Io qua, nel mio palazzo c'è uno che ha il Suzuki 400, un vecchio tipo, minimo va 20 anni, gli ha rifatto adesso il motore da poco. Però la moto è sempre nuova, sempre all'ete. Se rifatto il motore perché oramai per usura le fasce si sono consumate, eccetera, quindi gli ha rifatto tutto il motore, ma lì è una bella moto, va sempre forte. Ma che stile? Stile anni 70, 80, 90, con carena, senza carena? No, le carene ce le ha, è come Suzuki 400 normale, solo che è vecchio tipo, capito? È il tipo che è uscito prima del nuovo. Quelle vanno sempre, devi fare il motore. A me piacevano quelli anni 70, tipo la serie Z Kawasaki, io ho avuto il 250, vabbè, 250 piccoletta. Quelle senza carene, no, che vedevi bello il motore, oppure la serie 4, quello la Honda, io avevo il 400 4, poi c'era 750, non so se ci fosse anche più grosso, quante erano belle quelle, che vedevi nel film di Interceptor, ti ricordi? Quello con Mel Gibson. E anche nei film, facevano vedere i film che giravano a Napoli. E me le conosco tutte, in Piazza d'Italia io le vedevo tutte, c'era quella di Tarza di Sorso, c'era quella di Giompina, passavano in Piazza d'Italia, si fermavano, rapito, c'avevano i 3 in 1 che tiravano e si facevano, c'aveva Roma manettoni. Giompina è una leggenda. Ma no, è diventato un prete. No, non è prete. E diciamo predicatore. Vabbè, ho detto così scherzando. Che ti venga inizzato qua. Vabbè, non fa male a nessuno, deve essere abbigliato così, si è pentito di ciò che ha fatto. O qualche caduta di troppo ha preso. Cazzo, mica andavo a Scala di Giocca, mi sedevo e guardavo all'inizio, cazzo, a vedere facendo le curve, ui. Roba di cui va via, ragazzi, toccava l'intera, anche le vespe si raggurrigano. Mamma mia, Scala di Sciocca, da fare moto, mamma mia. Quanto è stretto lì, tornanti, quanto sono stretti. No, io non lasciamo perdere, non ci ho mai nemmeno provato, non so che ci scendo al piano di giù. Oh, io mi ricordo una storia, una volta si mettevano tutti sul guardaria a guardare, no? Questo qui con la moto ha impennato davanti a questo ragazzo che io conoscevo, lui per evitare di prendere la moto perché gli stava andando addosso, ha storciato, ha pigliato il guardaria e la rampa di tutti i gatti giusti. Sì, ma infatti sono di una pericolosità queste gare, non tanto per i mezzi in sé, ma per tutti quelli intorno che stanno a guardare. Aspetta, da poco ho letto qualcosa riguardo. Ah no, c'erano youtuber che si sfogavano per queste gare. È inutile che vi mettete tutti in mezzo alle rettatori a bordo strada, seduti a terra. Se la macchina spanda e va arriva a faccia, non fate in tempo neanche a scappare. Ecco, già l'ho letto, l'ho visto. Poi gente che va ai raduni di macchine clandestini sempre, no? Di notte, con queste 500 Abarth, solo per far scoppiare il motore, la marmitta. Fa sempre wom po, wom po, wom, tutta la sera così. Non fanno nemmeno gare, non fanno gare di velocità, gare di nulla. Solo wom po, wom po, a far scoppiare la marmitta. Addirittura c'è il kit proprio, per quella macchina, per fare scoppiare, fare le detonazioni nella marmitta, non si può essere più gaggi. Ma fai, qui ci sono piloti di secco, per vedere la velocità e la velocità, non ne fanno manco più di quelle, sono stronzate. Andate Massing Game! Ci sono piloti, no, cioè, fate le critiche. fare strada, non sanno andare da qua a Platamona, ma la capisci? Tutti quei ragazzini mucunosi e cosa? Cioè, secondo me andano, si beggiano, si partono altre volte perché non vi sono buone. No, i pericoli sai chi sono? Quei ragazzini che comprano BMW, Audi, macchine grosse così e si mettono a correre come matti. L'altro giorno questo ragazzino con un Audi per poco sui passaggi pedonali, non cassicheggia, a me a testa tutti e due, sui passaggi pedonali, camminando come uno scemo, ha fatto la curva, ha trovato a lui subito nel passaggio pedonale, se non lo tiro io a testa non ero messo. Sì, proprio se ne piglia la macchina, cioè, perché prima bisogna imparare, bisogna vedere se va via pure la patente, anche un bel si può girare così, me. Cioè, perché uno deve rispettare le regole, deve rispettare le strisce, deve rispettare le... Io oggi mi sono fermato, cioè, a far passare il pedone, cavolo, vicino a dove c'è Caffore. Che ci ha pigliato, ed è passato. Oh, mica sta facendo passare il pedone. Ma cosa si vende? La patente chi si, no, non l'hanno presa, cioè l'hanno furata o cosa, perché te li insegnano, sono molto severi in queste regole. Allora, anche tu, è giusto quello che hai fatto tu, però il pedone adesso, solo se ha l'intenzione di attraversare, lo devi far passare, è obbligatorio per legge. Prima non esisteva questa legge, solo se stava attraversando ti devi fermare. Adesso se vedi che il pedone è sul bordo del marciapiede e ha intenzione di attraversare, ti devi fermare. Già non credo che ti devi fermare già. Io quando lo vedo che me lo faccio passare il pedone. Da poi è un giorno un ragazzino, l'ho preso a voce. Io ho detto, cazzo, ma non lo vedi che di poco non lo metti sotto, lo vedi che sei un pezzo di idiota, sei una merdaccia, di tutti i colori ne ho detto, Cioè, cavolo, io mi sono fermato a farlo passare a giù mai di un numero cazzeghezze, ma non lo vedi che cazzo sono miserabile. Perché fanno così, magari ti fermi con la macchina, passa la moto, ti sorpassa il cazzeghezze. E io ho visto di queste storie, via Giovanni Pasqua, una volta siamo andati a prendere questa famiglia, stavano andando padre, madre e il figlio piccolino attraversando il marciapiede. Questa macchina si è fermata per farli passare, una macchina da dietro non ce l'ha fatta, l'ha pigliata in pieno, la macchina l'ha fatta andare avanti, ha investito tutti quanti, ma lo sai che gli deve pagare quello che gli ha investiti, me l'hanno detto. Certo che deve pagare quello che gli ha investiti, la macchina che gli ha portato sotto, cioè, perché se io mi sono fermato e tu cade, fa un ritiro di patente, cioè. Quando si è fermato, la macchina dietro, come gli ha dato il colpo, l'ha fatto andare avanti, gli ha fatto investire la macchina che c'era dietro, mi ha dato il colpo da dietro. Ma appunto, lui deve pagare, lui mi ha dato il colpo, non io. Lui ci paga i danni, e quello là si deve pagare le persone che ha investito. Ah, lo paga pure le persone che aveva, l'aveva avuto una passata di giappia, che so, sai come ti avrei fatto la faccia, perché è un animale. Oggi stesso a giudizio, cazzo, ci mano si cudì, cazzo vergoso. Gabri, esci da terra! Cioè, gente animale, cazzo, a giumai oggi, cazzo, no, non si cuda la macchina, ma poi tende il telefonino. Ma perché uno deve guidare guarda il telefonino? È un attimo di cudare un muro, di cudare una macchina. Cioè, distratti. Io gli avrei spaccato la testa a questa gente di merda. Cazzo, così una volta al rifornitore lì è della Budibuti, quello che c'è per andare a Rocchepaccata, ci sono le sfrigilettrici zebrate, tu devi mettere le frecce a girare. Questa mi ha attraversato le frecce zebrate, domani non me ne rampa questo animale. Uno schifo di animale. Ma dove cammo? Hanno studiato, non è pigliata così la patente, gente. Cioè, se io ho la freccia, ho il diritto di girare. Cioè, se io mi fermo, e chi da giù non me ne viene da retto, ne ho visto tutto dallo specchietto. Sono rimasto fermo perché l'ho visto cosa hanno fatto. Mi hanno detto tutti i colori, siete animali, una massa di handicap. scappati qui dentro e non mettono pressa quando di solito aspetta capi, fai parlare capolo, quando uno esce dal parcheggio non pone in freccia, non pone in nulla, asini. Io avrei preso un po', gli avrei fatto andare attorno a scuola guida, che sono degli asini sono. Se io arrivo con la moto, arrivo con la macchina, cazzo, tu mi svolti e io non ti vedo, anda, mi cudo, perché non hai messo la freccia, io non ti vedo. Cioè se tu esci dal parcheggio devi mettere la freccia, ignoranti. Quella è gente che guida tanto per farlo, senza avere la testa di farlo. E quella volta che se la Budibudi dove c'è il rifornitore, questo qui stava passando con un Kawasaki tranquillo, io ero in macchina dietro, questo tranquillo non stava manco correndo. Cazzo, è riuscito la macchina al rifornitore tutta manetta, una miglia di impiego, si è sbattuto le palle al serbatoio, ha cominciato a gridare questo qua, oh, si teneva le palle, ma se le ha sbattute proprio bene. Gente che fa schifo, sono gente animale, lì ti devi fermare, perché c'è o c'è la precedenza, o c'è lo stop, obbligatoriamente. Io a questi gli avrei dato un pugno a bocca, li avrei aggrippati, perché non sanno guidare, non sanno, che arrivata una scuola a guidare, fatti tutte le guide, perché sono degli ignoranti, sono. Lo so. Purtroppo di questa gente se ne trova tanta. La via sotto casa, tu, l'hanno presa come scala piccata. Passano a manettone, si attraversa un bambino, poi c'è sempre gente che attraversa lì perché vanno a buttare la mondezza e cassonite e tutto qua. Passano a manettone, salgono da via Bologna, fanno quel curvone, senza fermarsi c'è lo stop, fare il curvone, dietro ci sono i passaggi pedonali, case, molte volte hanno rischiato di investire gente, ma cioè metti una pattuglia, li metti un coso per eccesso di velocità, metti qualche cosa, perché non è possibile, camminano come matti, specialmente quelli che portano le pizze, che camminano come pazzi. Qui sì, quei ragazzi bebè della minchia, quelli sono dei ragazzi bebè, non sanno, non, cioè la moto non la sanno proprio portare, non la sanno. Io li vedo correndo, ma non la sanno imbucciare la moto. Io la verità, ho fatto il portapizze, però sapevo anche correre con la moto. Stavo attento ai pedoni, stavo attento a tutto. Cioè sapevo pure curri con la moto, perché non è solo correre, bisogna anche saper correre. No, adesso c'hanno le macchine, le moto pochi sono con la moto. C'hanno le macchine proprio, capite, porta pizza adesso. Ma non camminare in un mattessi. Avanti, Marco. C'è anche Luca, avanti Luca. Ciao. Ciao a tutti, mi sto mangiando, c'ho fame. Ciao Lu, buonasera. Buonasera. Come mai quella baracchina? Già solito chiudo alle 8 tu, come mai? Ti ha portato la cane? Sì, l'ho già portato Lu. Perché oggi l'ho invitata a pranzo, sono salito in macchina, l'ho fermata in via Bologna lì e poi l'ho portata in giro. Dopo quando ho finito ho preso la macchina e sono tornato a casa. Ah, ecco. Oggi va vite. Vabbè. E comunque io stavo ascoltando, ce n'è gente che non sa guidare, per carità. Te lo stavo dicendo, questi ragazzi si comprano BMW, Audi, sono macchine vecchie che ne pagano 4.000 euro, 5.000 euro, però sono macchine che hanno una potenza del motore che non è una 500, ecco. Se camminano come matti, si trovano la macchina che cammina e loro si sentono degli uomini, capito? Sono ragazzini, si intendono i re, perché c'hanno queste macchinone qua, anche Mercedes. Cioè, la vendono una cazzata, 5.000 euro, 4.500 euro la trovi. Per il primo anno non è buono manco buttare, sai? Non si possono fare molte cose, altre pure si fanno, si può manco ammazzare e poi c'è gente che si ammazza. A Piazza Lescini facevano le gare un paio d'anni fa, poi non ne ho più saputo niente. E dillo a me Antonio. mi sa che Antonio il 1000 non lo può portare. No, bisogna vedere quanti kilowatt è. massa della macchina e quanti kilowatt sono, non è la cilindrata, no, perché io posso avere anche un 2000, però c'ha 70, cioè, c'ha 70 cavalli per dire, e lo posso portare, cioè, dipende quanto è la massa della macchina, capito? Se è autocarro li posso portare per il primo anno, ma poi li posso buttare tutti. Tipo tu non puoi portare oltre il 125 di cilindrata? Perché non ho la patente A, se no sì, se avessi avuto la patente A, sì, basta dare un altro esame, prendo una moto, do un altro esamino e io ce l'ho. Ma siccome io non aggiungare di un cammirosse, io posso portare il cinquantino che ho la patente prima di tutto, ho la M, e poi il 125 in Italia. Posso portare tutte. Scusate, vado in bagno. La patente è là, li puoi portare tutte. Sì, io là non ce l'ho. Io posso portare 125, 11 kW. Ma a me ne ho 125, non mi ha fatto nulla. A me mi va bene la mia, funziona bene. E mi porta dappertutto, anche a Alghero, sono sceso. Ma non è stato andare in moto così, grazie, boh. Non ti fidassi alla sera d'Alghero, tutti quanti corrono, fanno. Cazzo, l'altro giorno me l'ho scampata per miracolo io, stavo andando, sono stato a 130, c'era il limite di 80. Sono stato a 130, stavo andando a accompagnare Emanuele all'aeroporto, era già in ritardo. E c'era praticamente questo camion davanti a me, ha frenato di colpo, io l'ho visto frenare, sono andato a sorpassarlo, poi con la coda dell'occhio ho visto che c'era la polizia e ho frenato, quindi sono rimasto dietro il camion, capito? Però me l'ho vista brutta, sono riuscito a farla scendere a 70. Io passo per la Landrica con quella moto, devo passare. No, ho capito. Devo per forza passare dalla Landrica, non posso passare dall'altra strada, col cinquantino. Ah, tu non farà quattro corsie quindi? Con quella moto no, se avessi avuto la macchina sì. È un casino, con quella moto è un pericolo pubblico, è mica si ingheggiare, sono bastardi. Non guardare in faccia a nessuno, cammina le guenti macchine, io vedo macchine sprecciare, camminando di là, camminando a vivo. Vabbè, purtroppo è lì, nella sala di Alghero sempre ne succede, no? Ma non ha più voce 20 minuti a farà, ha più voce. Arrivato tre guive, 20 minuti ci ho messo, dal medo sono passato. Poi ho preso Alghero e sono andato. Sono raduto in hockey. Cammina la moto mia che non è 50. Io ci metto mezz'ora ad andare all'aeroporto. Mezz'ora, almeno 110, 90, non correndo moltissimo. La verità era tutto motore. Ci ho messo, vai, poi che ci ho messo una mezz'ora, non di più. Però io vado tranquillo, non è che se invece a tirare vado a 200, è normale che arrivi prima. Però sei sempre a rischio. È sempre a rischio. Io lì nella sala di Alghero solo una volta l'ho tirata, c'era 200 la macchina mia, però poi ho mollato e l'ho fatto solo per vedere se a gas ci arrivava, e ci è arrivato. Se no c'è quell'avvalamento, c'è scatta, fai tipo la montagna russa. Sì, io se no lo vedo a Santo Sola Nord, quell'avvalamento, quel ponte che c'è, che poi va sulla Budi Budi. Lì la macchina brinca. Lì. Ah no, non devi toccare nulla. Mamma mia, un ciubizzino. Ma va a saperci in occhi. Bisogna stare attenti anche perché c'è l'autovelox. Sono passato da Marcello e Mosca, sono passato da lì, rientrando. Vabbè. Io la faccio spesso quella sera perché quando arriva Emanuele la vado a prendere, la vado a portare quando rimbarca. stavolta no, perché si è dimenticata che il giorno che doveva partire è sfuggito e quindi ha dovuto prendere la nave perché in aereo costava troppo. Ma c'era la patente Manuela? Sì, mi ricordo ce l'aveva. Sì, è una di chi mi dava la patente. Non ha la macchina perché a Bologna è un casino, ti spiego. Tu alle 8 di mattina la macchina devi togliere al parcheggio perché se te la prende il carro a Trizzi. La puoi lasciare sino alle 8 di mattina parcheggiata. Quindi se non c'è garage è meglio che non ne abbi di macchina perché se no stai sempre prendendo multe. Per carità. L'aveva trovata una buona di uno che era morto, che ce l'aveva da poco. Era buona come macchina, 5.000 euro, però era una macchina nuova, capito, di pochi mesi, però era una Ford Fiesta mi pare, sì, una Ford Fiesta, però non l'ha presa perché mi ha chiesto a me se era il caso di prendere il prezzo, tutto qua, ho detto sì, sei buona, vai da un meccanico, gli ho detto ti fai accompagnare al meccanico e la fai provare al meccanico, che lui ti dirà se è buona o non è buona la macchina. Era buona. Sì, il meccanico gli ha detto che era da prendere subito, che era un gioiello. Poi la nuova, nuova, nuova, anche dentro, tutto quello. Se la stava per prendere e poi ci ha ripreso e dice, ma io dove la metto la macchina, casino? Ci sono questi parcheggi sotto casa sua, sino alle 8 di mattina e poi non si può parcheggiare e quindi devi togliere la macchina. Ma sono i randaggi di venarsi in chive. E lì ti mettono multe a go-go, capito? Devi avere il garage, per avere una macchina occorre il garage, c'è poco da fare. Almeno nella zona anche lì così funziona così. Capo. Gabri, vieni qua, mamma mia, è una scena, me ne gusta tutti i colori, me ne combina. Marco, cosa c'è? Perché sei ansante? Ha svuotato la vescica, non li budia più. E che c'era, carabiniere? No, ero in bagno, che c'avevo la vescica piena, non ne potevo più. Ah, e cosa tu si è mangiato? bevo molta acqua già, mi piace essere idratato. Vabbè, già fa bene l'acqua. C'era anche Luca, mi sembra che si è mangiato un frigorifero puro. Luca. Sì, un frigorifero, boh. Ma perché mangiamo un po' di patatine, già non voglio cenare. Adesso mangiamo una merendina, boh, basta, si lavo i denti, non mi si goco. No, io la sera sto mangiando leggero, mi faccio una caprese, oppure mi faccio due uova fritte con le cipolle. Ma stasera volevo mangiarmi i fagioli, solo che sono binocchi ancora, no? Non mi sono finito di gara di bisabini. Pure immagino, vabbè, vabbè. Ehi, cazzo, devo scendere domani. Cazzo, come si telefono in macchina, sono buco, sono un mezzo. Vado a farmi dire, arrivo. Vai, vai, tranquillo. Avete tutti mangiato? Sì, sì, tutto fatto già. Io e questo monello abbiamo mangiato, domani me lo voglio dire in casa, questo terremoto. Perché oggi non è stato bene. Ma no, cosa c'aveva? Una febbre. Ohia. In giro questa cosa, della febbre, tosse, lui. Molti sono a dissenteria pure. Dice che c'è un virus. Oh già, io da poco me ne sto uscendo da una sindrome influenzale o quello che è. È iniziata con brividi, febbre fino a 39, poi ho preso la tachipirina, poi debolezza, molta debolezza, capogiro, sudorazione abbondante, e poi però è passata anche abbastanza in fretta. Vedo che un mese fa ero stato male nello stesso modo. Cioè io influenza non ne prendevo mai nel corso degli anni. Adesso in 8 mesi 4 influenze, ti ricordi Natale, poi a gennaio dopo un mese male lo stesso, un mese fa, poi adesso, boh, che strano. A me Marco mi ha preso questa tosse, lo scemo degli occhi, questa tosse secca. E non mi voleva passare in nessuna maniera, ho dovuto prendere le gocce per tosse secca perché non mi voleva passare. La tosse, il raffreddore, gli occhi che mi si gonfiavano, mi all'orbita a casa, poi ci va proprio lacrimava noi. Ecco, invece da me livello polmonare nulla, capito, né tosse né roba di naso eccetera, però tutto febbre, vomito, anche vomito. Vomiti a vuoto poi mi, praticamente come bevevo l'acqua, poca acqua, alla fine uscivo uguale, trasparente. Però proprio poi il malessere che ti lascia è questa cosa, ti mangia, poi ho perso altri chili. Sono arrivato a 67 kg e 3. Mi sono pesato dopo. Quando è 2 giorni fa? Addirittura. Una volta ero 80 kg, solo che erano. Ne avevamo già parlato già. Era tutto addome, tutto pancia e stomaco. E non andava bene, era troppa pancia. E allora tanto meglio essere dimagrito un po'. Perché tu mangi troppo cioccolato, sei goloso. Ma mamma condiceva di più. Forse solo il cioccolato, anzi il cioccolato l'ho un po' ridimensionato, però le cose dolci mi attirano, così da. Dicevo già, per la roba messicana, sai cos'è? Quando, per esempio, se tu vuoi mangiare messicano, mangerai solo il vero messicano se vai in Messico. Qua è tutto un finto messicano, un finto cinese, un finto, cosa ne so, devi andare proprio nella regione, nel paese, nella nazione vera e propria, se vuoi mangiare, come dicono, come che in America ti facessero mangiare cucina sarda, sì, in America, voglio proprio vedere cosa ti danno, ma carai dai. Prego, il droghio. Ma io ho mangiato fagioli con sugo piccante, e poi un bistecone di quelli grandi, ed era l'ultimo, e l'ho diviso con i miei figli perché non ce n'è l'altro, lo volevano anche loro, quindi l'ho diviso, io ho mangiato la parte e sono attaccata all'osso e il resto l'ho dato a loro, dai, l'ho diviso in tre. E poi mi sono mangiato questi fagioli fatti col sugo alla pizzaiola, con i capri, eccetera. Ah, era tutta roba che puoi fare benissimo qua, non era niente di eccezionale. Ma non, io sono andato in quella di via Pasuglio, quella lì. Sono andato in quello, non mi è piaciuta. E ho pagato la vacca di Dina, non ti riguardo, 40 euro. Ma cosa messicano quello? Cosa? Ma messicana? Sì, messicano. Wow. Se ti regali che si preparano che vuoi niente, ti guardi, se ti sa prendere lo stoppino, ti sa prendere. Che te ne la buona? E chi invece mi tramaglia il coso? Fabrizio, un amico. Una di al circolo, prendendo il paruguro, abbiamo. Quel bastardo di Costantino lo facciamo assaggiare, abbiamo portato questo peperoncino, lo facciamo assaggiare a tutti, qualche duro. Tutti ridendo. Che cavolo. Ma di chi si vuole questo peperoncino un bel forse. Acqua è qui tu bastardo. Che fa niente, ci vuole il latte. Lo so, ma prima aveva l'acqua, più peggio era, più ridia che tu. Ria, vabbè, a tu. Io guarda, lo sopporto perché io ho mangiato anche l'alluia. Vabbè, mi ha bloccato la mascella, però l'ho gustata. Me l'ho fatto gustare e l'ho gustata. Mi ha bloccato la mascella, però io ho un po' di piccante, lo metto sempre anche nel sugo, però non ne metto eccessivamente, ne metto quanto basta per non essere troppo piccante. Si sente appena appena ed è delicato così, ti dà il sapore buono. Però lo resisto abbastanza per il peperoncino. Quel bastardo là, l'aveva portato questo peperoncino fortissimo, una bomba potente. Non so con che cosa l'ha mischiato, ma una puntina che era incendiato. E allora metteva nel coso, lo faceva assaggiare a tutti, anche con gli africani, e dormiva. Cioè, no, del bastardo, ragazzi, dormiva nei voci da poi. sera, ma che è quello che metteva le canzoni nel matrimonio tuo? Me l'ha regato Fabrizio Maccio, come l'ha regata la cosa. Che lavora lì a quel coso messicano. L'ha regato, duetto, tutto il redente. Via. Vabbè, tanto. Diciamo che sono scrissi una volta, l'avevo fatto quando ero bambino. Sai che prima anticamente appendevano i peperoncini, non so se lo fanno ancora adesso, a seccare delle finestre. Quindi ci mettevano un chiodo fuori e ci mettevano, appendevano i peperoncini per essiccare. Cosa è successo? Da me se qualche colpo di vento li ha buttato qualcuno e io li ho raccolti, ero bambino. E questo amico mi ha detto, che cosa sono? Sono delle banane tropicali. Ma si sbucciano? No, non si sbucciano, le devi mangiare così. Cazzo, se ci ho fatto male, non mi ha cominciato a zecchire. Ah, correggi, mamma! Non ci fa fare niente, mi fa dare un quattro a oggi, con le siate. No, a volte tu chiedi di te ridendo, gli secca la bocca. Io ci sto dicendo che la nuia mi ha proprio bloccato la mascella, ma non riuscivo più a muovere la bocca. Un peperoncino fortissimo, cosa vogliamo? Poi Marco, una volta avevo comprato una piantina di quei peperoncini, mi sembra che siano, come si chiama, non so di che regione siano, però sono fortissimi, sono piccolini e forti come peperoni. Cazzo, non puoi dimunire che uno di chi si beva, sono più minoribili, ma cazzo, sono potenti. Non mi ricordo di che regione siano, se siano napoletani o da risolvo, però sono piccolini. Vengono dalla Calabria, dalla Sicilia, quella roba. Quello è niente, immaginatevi invece un Carolina Reaper, cioè i nostri peperoncini italiani sono nell'ordine delle centinaia, forse anche un migliaio di Scoville, quelli americani o tropicali arrivano anche tipo a 2 milioni di Scoville. Non avete mai visto le sfide su YouTube, se li mangiano interi, se li mangiano. E poi però sono talmente forti che finiscono in ospedale le persone, qualcuno ci lascia anche le penne. C'è il cugino della mia ex moglie che si mangia il peperoncino così a morsi, non le fa niente, non lo sente. C'è la bocca di amianto. Per carità. Proprio a morsi, lui dice a morsi, che non le fa nulla. Lo mangia tranquillamente. E lui mi dice, lo vuoi magari quando sarà cena da lui a pranzo. Ci ho messo un po' di peperoncino, no, non le mettere a me, è olio di quello santo, devo caso quasi lui si ripagano le dritto, mamma mia, ruglio, Devo ruglia adesso. Sì, lui è proprio fortissimo perché ci sono tanti peperoncini dentro, non è uno solo. e dopo scendono anche i semi, a volte i peperoncini si rompono, scendono i semi, e gli si sono incidiali, proprio non mi va a resistere a quanto bruciano. I semi sono potenti. La varietà non la sapete? No, stavo vedendo, per esempio calabrese, no, già sono 20.000 Scoville, 30.000, 50.000. Io sto guardando qua, dipende dal Carolina Reaper, c'è scritto, no? Tipo 5.000, quant'è di Scoville? Non si legge bene se 2 milioni o 5 milioni di Scoville, però vedi, quelle sono cose che non puoi usare così a pezzi, proprio ne devi usare una quantità infinitesimale e stemprarla in altro materiale, perché è roba veramente che ti ammazza nel vero senso della parola. Proprio come dici, ti può far rimanere secco quella roba. E l'altro è Trinidad Moruga Scorpion, chiamato anche Trinidad Scorpion, sono terribili. Per esempio quelli dice che senso ha un peperoncino così forte? Ha senso perché da un frutto singolo piccolino ottieni una quantità di materiale piccante enorme, capito? No, ma non mi piace mangiare così, no, troppo piccante non va bene. Sì, magari uno finché è giovane lo regge, però poi, che ne so, da grande se uno non ha lo stomaco ancora bello blindato o gli può venire gastrite o roba del genere, non si scherza. Comunque a me piacerebbe molto cucinare, cioè mangiare la vera cucina messicana, però non è che fai, vieni da noi e ti danno appunto, come tu già, la carne, due fessiri, due fagioli in croce, vorrei roba buona, messicano singolo, pure anche i tacos, i tamales, tutta quella roba proprio tipica anche proprio del Messico, solo che lì ti devi portare davvero il motilio a me, perché è una roba terribile. Terribile solo, che se ti incendietta, Gianni non c'è più. Sì che ci sono, ho cambiato l'orario, dai, l'ho scaldato bene, adesso c'è questa. Sì, pure io sto cambiando radio adesso metto l'altra. Vado a cambiare. E qual è la cosa più strana o schifosa che avete mai mangiato? Non mi viene in mente, ma sto pensando. Però siccome ci vado a naso nelle cose, non mi è mai capitato di mangiare cose strane. Io vabbè, la più strana, che però era buona pure, piccante, boccio, il formaggio con i vermi, classico, ma ero bambino, era ai tempi di Campanella, cioè la Campanella l'avevo provata. E l'avete mai sentito questo surströmming? Sono barattoli di aringhe praticamente fermentate. Dice che questa lattina, come l'apri, fa un fiaggo, ma un fiaggo di fogna, di morto. E poi a mangiarsi il pesce, quello è la vera sfida. Ora chi non ha senso, vera, come ho commutato, ha inteso a voi. Sì. Io li sto facendo girare tutti, tanto perché c'era un bel film, io uso sempre il Galaxy e ogni tanto bisogna che usare anche gli altri, cioè se rovina. Che sono da candela acceso sul baracchino? Cioè, praticamente ho commutato. Sì, ho commutato e ho sentito voi, ho detto che sono da candela sul baracchino acceso. Roba troppo potente, roba che fa male, fa malissimo. O il fesic, anche come pesci fermentati, il fesic, cosa fanno gli egiziani? Pigliano, pescano un pesce di sotto un mugine, lo lasciano all'aria così a fermentare, ci fanno le mosche, tutto quanto, ma poi quando è bello puzzinoso, puzzolente, mezzo secco, ma anche mezzo fiaggoso di putrido, lo aprono e lo danno, lo servono a mangiare. Che schifo. Si chiama fesic. Infatti, a loro non farà niente, che sono abituati, capito? Però sono curioso però di sentire sta roba, che di cosa sa, dici di cosa vuoi che sappia, di merda. Di merda sarà, cosa vuoi che sia, per carità. Schifo. Sì, e diciamo che il surströmming è una cosa del genere, però loro non lo lasciano alle mosche, all'aria, lo lasciano in vasche di decantazione, poi lo mettono nella lattina, e la lattina di solito si gonfia proprio per questo fenomeno, diciamo, fermentativo, mi faranno dire putrefattivo del pesce. Quello, ogni tanto guarda, cerca su YouTube surströmming e guarda la gente che prova a assaggiarlo. Eppure in Norvegia dove lo mangiano, però non va mangiato così, a forchettate dal coso. Qua ne togli un filetto, pulisci bene con la forchetta, da quella mucillagine che c'ha, figurati. Poi lo mettono nel pane, del pane tipo piadine, e ci mettono cipolla, patata, poi una specie di crema allo yogurt, che sembra tipo salsa greca, no? Ci mettono un po' di ingredienti, loro alcuni alcuni lo mangiano come tradizione, come noi possiamo mangiare il formaggio con i vermi, loro ci hanno il suo stroming. Ma pratica! Tu mangi il formaggio con i vermi, praticamente è tutto cagato dalle larve, quello che mangiamo è la cacca delle larve, quella bella cremosità piccante che sentiamo. Pucci! Ma quella è naturale, roba naturale, che è roba pratica! Per carità! A me c'è più! Che gli messo un casino nel telefono, Marco! Adesso mi sono messo a questa scritta giapponese, boh, non se ne comprendi nulla. Mi sta richiedendo la password della wifi. Qua, così. E buon rimetterla, non so. Vedi un po'. Prova, magari un po'. Bisogna fare attenzione a virus, cioè, c'è di tutto in rete, virus, cose, addirittura ti possono mandare un messaggio con una foto, tu non devi nemmeno aprirla, capito? La foto è ovviamente tutta con virus, con cose, non devi fare niente, quando il messaggio arriva il danno è già fatto, è una cosa folle, è una cosa folle. Ecco, ho asusabile, ecco. Le macchie che fanno queste cose, vabbè, io c'ho, pago ogni mese antivirus, pago, quindi se dopo entrare mi si blocca subito. Sì, mi sono in fase calante, mamma mia, la biocco mi sta venendo, ui. Secondo me nell'ora che mi accendo un po' di TV, ma è l'ora del film, dai, vediamo che schifo ci sono, se no mi guardo un film mio. Marco, non sai cosa può essere, c'è scritto recovery nel telefono. Il recovery praticamente ti pialla a zero tutto, perdi i numeri, il telefono, tutto, appunti, roba salvata. Qualche virus ti è entrato, non lo so. Allora, qua c'è scritto recovery impact format data remote device over off. Cosa metto? Ok, power off. E se è uno scherzo invece che magari vai a dire no, non formattare e poi ti fa più danno, boh, e non so già, a distanza non so più, ma anche sul mio non saprei cosa fare, io già ho l'antivirus, quello a pagamento, qualcosa farà, spero che blocchi la maggior parte delle minacce. Poi forse ce l'ho fatta proprio ripartire. Parto, abbiamo un po' di pazienza. Magari si era solo impallato momentaneamente, però mi ha detto che sono comparse scritte in giapponese, coso, roba è. Oh, è partito! Via. Quanto tu antivirus ne hai attivo lì, cioè a pagamento che funzioni da solo senza fare le scansioni manuali? No, non io. Vabbè, io non mi fido. Tanto per quel che paghi, sono 10 euro all'anno, 10, quant'era? 10 e 11, non me lo ricordo. Qualcosa farà, perché lui rimane attivo, invece se usi le cose gratuite, praticamente lui agisce solo quando fai la scansione tu manuale, allora li vede i virus, se no non li vede. E io ogni tanto la faccio, capito? Adesso faccio anche adesso. Ma guarda, adesso che vado a cucinare e mangio qualche cosa anch'io, vado a cucinare la roba a Tyson, io già mi mangio fagioli, poi questa notte c'è concerto, se volete venire. No, ti devo lì, va bene. E che concerto è? Dopo che mangio i fagioli. Ah, quel concerto, no. Guarda, invece, se vi volete vedere un bel film a cena, filmone, questo è un filmone, Le ali della libertà. Vi dico anche il canale. Canale 22, Iris. Inizia alle 9:23. E se ce la faccio, se lo vedrò prima. Vabbè, dai, buona serata a tutti, ciao Antonio, ciao anche a Marco e tutti gli amici, Luca, se si è all'ascolto, tutti gli amici che stanno ascoltando, ciao. Ciao a tutti, buonanotte, anch'io che la trasmissione mi riposo. Cappa signori, buona serata a tutti. ci sentiamo oggi da, cazzo, miracolo, siamo rimasti fino alle 9, vabbè. Ci sentiamo, buona cena a chi la deve fare, ci sentiamo quando capita, ok? Ciao a tutti, ciao. Era ora che si facesse un po' di radio, troppo. Cazzo, devo trovare una bella bagosa a parlare di Sinni. Era proprio ora, era. Dai, ci sentiamo, ok? Ciao a tutti, ciao. Ciao. Buonanotte. Meno male un po' di radio stasera.